All'anima della sigla. Mi rifiuto di parlare senza sigla. Benvenuto Gabriele, grazie di essere qui in questa... Prego, un piacere. Sta lottando con il microfono. Qui senza faster va tutto a rotoli. Tutto a rotoli, uno sfacelo. Esatto. 4 CD. Ah, ma che CD? Telefonate cadute. E quant'altro. Va bene, tu ci parli dei film in uscita questa settimana. Sì, che è una bella settimana. No, è non una... male. È una bella settimana per essere italiani e andare al cinema. Allora, innanzitutto esce uno anzi escono, questo che guardo bene, due dei film più interessanti di questo momento, di questi mesi. Ah, uno è quello che ti vai a vedere te, che mi hai confessato che andrei a vedere te adesso. Ted. Che è Ted. Lo sto aspettando. È un film che si presenta come stupidino, un film divertente, però insomma così, disimpegnato, che poi lo è molto tranquillo. Ma in realtà c'ha un sacco di cose che lo rendono molto interessante. Allora cos'è? È quel film che magari l'avete visto perché stanno facendo un sacco di pubblicità, con l'orsacchiotto animato. Sì. La storia è che questo bambino inizia tanto con questo bambino di 9 anni che è molto poco integrato, ha pochi amici. Allora i genitori gli regalano questo orsacchiotto e lui, prima di addormentarsi, desidera fortissimo che questo orsacchiotto si animi, diventi vero. Mm-hmm. E diventa vero, è quello che effettivamente succede. Ma per vero si intende che parla, cos'è. Poi stacco, 30 anni dopo, il bambino è cresciuto, è Mark Wahlberg, e l'orsacchiotto pure. Ma è cresciuto come crescono le persone, cioè è diventato uno che si fa le canne, il bong con le canne, la spogliarelliste, cose, grevissimo. Questa cosa, però loro sono rimasti molto legati, molto amici. Questa cosa genera una serie di gag divertentissime, chiaramente. Poi è veramente molto intelligente anche come tipo di umorismo. Ma soprattutto inizia come un banale, cioè una cosa tipica americana del... Lui e lei stanno insieme, mm-hmm, e l'orsacchiotto sta in mezzo, no? Che è l'amico che dà sempre fastidio nella coppia, il terzo incomodo. Però più va avanti, più piano piano ti rendi conto che è una... In effetti è una metafora molto banale, ma poi molto efficace, del non riuscire a crescere, cioè il restare legato all'orsacchiotto, che nella metafora del film è il tuo amico, però in effetti è l'orsacchiotto che c'avevi da piccolo. E quindi del non crescere, del non riuscire a stabilire una relazione effettiva perché sei attaccato a quello. Il film non ci punta tanto, cioè non vuole essere didascalico e spingere su quest'idea, però diciamo che tu te la fai guardando il film, perché insomma è una metafora abbastanza chiara. Ed è molto intelligente in questo, in come lo propone, in come senza esagerare ti dà queste idee, soprattutto con un divertimento veramente come non mi capitava da Una notte da leoni, ecco. Certo. Non è un film da bambini, ecco. No, quello sicuramente no. No, nonostante l'orsacchiotto. E pensa che lui, allora, il film è diretto, scritto, prodotto e interpretato da Seth MacFarlane, che è il creatore dei Griffin. Dei Griffin, ecco, esatto. Quindi appunto. E l'orsetto, il più diseducativo, esatto, esista. L'orsetto è fatto in motion capture, che è quella tecnica per la quale un attore si riempie di puntini in faccia, si mette una tuta piena di sensori, si muove, recita, mm-hmm, e tutti i suoi movimenti, sia facciali, sia che le mani, i piedi, vengono registrati da un computer e poi attribuiti a un personaggio creato al computer, che per l'appunto è l'orsacchiotto. Quindi l'orsacchiotto effettivamente si muove e recita come faceva quell'attore. Quell'attore in questo caso è Seth MacFarlane, cioè il creatore dei Griffin, il regista, che ha fatto lui in prima persona tutti i movimenti, la recitazione e il doppiaggio dell'orsacchiotto. E insomma, vedendo il film un po' te lo figuri anche il perché in effetti è talmente a metà tra il ragazzone mai cresciuto, l'immaturo, ma a un certo punto anche quasi paradossalmente questa è esilarante, la figura saggia, che in effetti alle volte può essere più semplice farlo che spiegarlo a qualcuno, insomma. Ve lo consiglio moltissimo, Ted, è veramente un film molto molto interessante, con un sacco di livelli di lettura, come si dice all'università, è pieno di livelli di lettura differenti, ecco, questo film. Quindi bisogna applicarsi, esatto, pensarci anche, esatto, dopo a, esatto, casa, cercate, meditare, di non ridere troppo e di applicarvi molto. Invece l'altro film che, sì, che a me è piaciuto veramente tanto, disegno completamente opposto, queste sono quelle cose da tipiche da coppietta, no? Che si va nel multisala e l'uomo va da una parte e la donna va da un'altra, questa è una cosa classica. Però io invece questo film qua che sto per dire lo consiglio anche agli uomini, perché secondo me è un film veramente di una potenza, di una forza fisica come se ne vedono raramente. Allora cos'è? Un sapore di ruggine e ossa, che io non capirò mai perché... Scusate. Cosa hai suonato? Ho suonato questo affare che sta qui. Sai quelle trombette che ti chiamano? Ci mancava oggi. Ma ti chiamano veramente? Abbastanza. Cioè ti mettono sul tavolo le trombette che fanno questo suono. Questo credo che sia l'amico di Giovanni. Diceso quando trasmette, vabbè. Non lo faccio più. Dicevo, un sapore di ruggine e ossa che gli hanno dato questo titolo italiano che, cioè, che ti viene da pensare, ma che schifo, un sapore di ruggine e ossa, che cosa orrenda che deve essere. In realtà il film in originale si chiama Ruggine e ossa, non so perché abbiano aggiunto sapore, giuro che non se le mangiano, non so perché l'abbiano aggiunto. È un film di Jacques Audiard, è un cineasta francese, forse il più straordinario tra gli ultimi arrivati, tra, cioè, quelli più recenti. I suoi film sono tutti quanti bellissimi, se li conoscete sono Sulle mie labbra, Tutti i battiti del mio cuore e Il profeta. Bellissimo, diciamo, sono, sì, più, sì, sono sì, film sì. pazzeschi, che raccontano mondi che esistono, che magari ti ci ritrovi anche, ma che nessuno aveva mai raccontato al cinema. E Un sapore di ruggine e ossa si inserisce in questo solco. Di cosa racconta? Racconta, come sempre capita a Audiard, di un personaggio a cui manca qualcosa. Una volta, sulle mie labbra, lei è sorda. Sì. Nel profeta a lui gli manca la lingua, cioè non parla la stessa lingua degli altri. In Tutti i battiti del mio cuore ci sono mille mancanze diverse, è impossibile dire quale sia la più grossa. Qui, in questo caso, lei perde le gambe nel film. Ma le perde in una maniera che io già quando... Siccome poi, sai, sono molto appassionato di Audiard, quindi li seguo dalla lavorazione. Appena era uscito fuori che film sarebbe stato, e quindi la sinossina, la trama breve in poche righe, io già ero rimasto folgorato da quest'idea. Cioè dal fatto che la protagonista perda le gambe perché gliele mangia un'orca. Mamma mia. Che è una cosa che nella vita comune non capita a nessuno, che le gambe te le mangino. Quasi splatter. Sì, ma poi non si vede, per carità. Però comunque l'idea è incredibile, sì, che tu a un certo punto perdi le gambe perché te le hanno mangiate. Lei è un'addestratrice di orche, quindi questa cosa più o meno ha un senso. E si ritrova ad un certo punto, questo accade subito nel film, quindi non è che vi sto levando nulla, e si ritrova che senza essere, che gli manca qualcosa di grosso, insomma, due gambe, e gli era partita come una storia così, una storia un po' perduta, una storia di quelle che, insomma, magari poi non se ne faceva nulla, con uno che è il suo opposto, come capita in Sulle mie labbra, che lei sorda si mette con un disperato. Questo qui è un pugile di strada, cioè uno che fa botte senza guanti, così, con un figlio a carico di cui si occupa e non si occupa, che gli dà un'educazione che ti lascia immaginare. Però sviluppano incredibilmente una storia stranissima ed è incredibile, il film è molto bello, succedono tante cose, ma in fondo non c'è altro rispetto a quello che vi ho detto. Cioè il film è questo, ed è più che essere centrato sulla storia, è centrato su questo mondo in cui si muovono questi personaggi così, questo incontro tra il massimo della potenza, cioè il pugile di strada, e il massimo dell'impotenza, uno a cui mancano le gambe, cioè certo. Quindi il massimo della cosa. E è bellissimo, ho avuto anche la fortuna in questi giorni di incontrare il regista che è venuto a Roma per fare interviste. Ha detto una cosa molto bella, che si può anche sapere prima di andare a vedere il film, anzi, come saperlo prima, un po', un minimo ti fa guardare il film un po' diversamente. Che c'è una scena in particolare che non è la scena clou, cioè magari se vedete il film magari vi piace, ma insomma non, sai, sono quelle cose che pensi, magari questa scena è piaciuta solo a me, ecco, perché non è il punto centrale del film, che invece è il punto centrale del film. Cioè per il regista, sul serio, a un certo punto ha detto: io ho fatto tutto il film praticamente solo per poter filmare quella scena, per essere giustificato ad avere quella scena. Ed è un momento in cui hanno appena fatto l'amore, sono entrambi nudi sul letto, lui è steso e lei è stesa sopra di lui. E c'è questo corpo di lui, chiaramente grosso, e il corpo di lei senza gambe, tatuato. E lui diceva, bellissimo, il regista dice: e questa cosa del tatuaggio è fondamentale, cioè io non sapevo neanche che tatuaggio avrebbe avuto, ma doveva essere per forza tatuata sulle gambe, perché è lo snodo centrale in cui lei si rende conto, accetta questa sua situazione, e anzi accetta queste gambe mutilate per quello che sono, cioè per un elemento che può essere incredibilmente erotico, e quindi le tatua, gli dà un tatuaggio, le valorizza, le rende qualcosa da guardare e ammirare, da apprezzare. E sta seduta, il regista ha detto, sta sdraiata su di lui come una sirena su uno scoglio. È una metafora straordinaria, chiaramente da grandissimo regista. E in effetti devo dire, poi adesso suona un po' incensatorio dire che ma io l'avevo notata, ecco, la scena. Poi in effetti sul serio mi aveva colpito anche a me. Vabbè, ci crediamo. Perché è un momento, grazie, sei gentile a crederci, grazie. Momento molto bellino. Insomma, avrete capito che io ve lo consiglio abbastanza, Un sapore di ruggine e ossa. E quindi... Del resto i francesi difficilmente sbagliano. Sì, sono perché, insopportabili, ma... per come fanno bei film, è una cosa che... poi sai, perché? Perché loro la verità è, poi tra l'altro... La verità non è neanche che fanno molti bei film, la verità è che fanno molti film. E c'è una certa selezione in quelli che ci arrivano da noi, cioè noi giustamente non importiamo quelli brutti, come è logico che sia. Per cui ci arrivano solo i belli, e sono tanti, perché ne fanno tanti. Anche a loro gli arrivano solo i belli italiani, però sono due o tre l'anno, per cui... hai fatto la faccia del boh! Un po' e invece così, ti smentirò col prossimo film di cui voglio parlare, che non esce questa settimana, ma settimana prossima. Però un attimo vorrei accennarlo, perché veramente è un film... veramente bello. Quello di Gabriellini, no. No, questo lo parliamo, cioè questa settimana, poi ne parliamo. Sì. Questo qui è un film veramente, veramente bello. È tutto il giorno che ci penso perché l'ho visto questa mattina. Si chiama Tutti i Santi Giorni. No, settimana prossima esce. Si chiama Tutti i Santi Giorni, è il nuovo film di Paolo Virzì, scritto sempre da Francesco Bruni. Questa cosa è una cosa molto importante perché è un film scritto benissimo, tratto dal film, e qui ci ricolleghiamo subito al tema della musica, tratto dal film di, ecco, sapete il nome, dal libro di Simone Lenzi, Virginiana Miller. Sì. Sì, esatto, Simone Lenzi, che è il frontman dei Virginiana Miller. Il libro si chiama La Generazione, che non parla di una generazione nel senso tipo la mia generazione, ma del fare un figlio, quindi generare una vita. È la storia, adesso mi dispiace dover raccontare la trama così perché sembra bruttissima, ma semplicemente di due persone che stanno insieme, vorrebbero avere un figlio e non ci riescono. Questa cosa sembra bruttissima come trama, ma in realtà è un film, alla fine mi sono commosso un sacco. È una storia d'amore bellissima, ma bellissima nel senso che alla fine ti commuovi perché si amano, e questa cosa è stupenda, le cose che do così. Comunque è vero che commuove, Virzì. Anch'io mi sono messa a piangere. La prima cosa bella? No. Tutta la vita davanti. Il call center. Tutta la vita, bellissimo. Il mio preferito di Virzì, il call center. Tutta la vita davanti, sì. Ti messa a piangere quando lei piange, vero? Sì. Pure io, un sacco. Non è che mi capiti spesso con i film, soprattutto con i film italiani. Devo dire. Sì, sì, è vero. Un giudizio, però. Questo Tutti i Santi Giorni, insomma, è un film veramente molto bello. A recitare sono due. Uno è un semi esordiente ed è Luca Marinelli, ma ne parlerò dopo. L'altra è Thoni, cioè THONI, che è una cantante che loro hanno trovato su MySpace. Non ha ancora fatto un album, cioè ne ha fatto uno adesso, però in virtù di questo film, perché gli hanno detto ok, facci le canzoni, poi facciamo l'album. Quindi esce questo album di Thoni che si chiama Tutti i Santi Giorni. Si sentono un po' di canzoni nel film perché lei nel film è una cantante, per cui gli serviva una che cantasse veramente, e questo porta al film veramente tutta una dimensione diversa, perché non c'ha la faccia dell'attrice lei, non, è una faccia strana, una faccia normale, non da attrice, una faccia probabilmente non, neanche fotogenica, semplicemente una così. E questo ovviamente gli dà subito un'ottica di più autentico, più attaccato alle cose. Canta e suona per davvero, è molto bene, veramente molto bene, bellissimi i pezzi. E l'altro, Luca Marinelli, loro insieme funzionano tantissimo in un film che vuole essere romantico, perché poi questo è un film che vuole essere un film romantico, per quanto si ride, ma è un film di Virzì, quindi si ride molto, è molto umoristico, poi c'è molta complessità, c'è anche molto dramma, veramente è un film complesso. Luca Marinelli è l'attore di La Solitudine nei Numeri Primi e ha fatto il transessuale nel film di Gipi, che era quello sull'extra, Dio santo, questo non me lo ricordo. Comunque faceva un transolare nel film di Gipi. Ed è un attore che me ne sono accorto solo in questo, solo vedendo Tutti i Santi Giorni, che è straordinario. E non ce ne si accorge facilmente, perché è uno di quelli che recitano in levare, cioè invece che fare di più, sai, fare tipo l'attore teatrale, quelli che urlano, gesticolano, è uno che quando deve rendere una sensazione leva. Quindi gesticola il meno possibile, cambia espressione il meno possibile. E questa è una cosa che facilmente si fraintende. E io stesso, vedendo La Solitudine nei Numeri Primi, che è un film che mi è piaciuto tantissimo, pensavo che fosse il film a far funzionare il suo ruolo. Cioè che lui fosse un attore normale, come tanti altri, però che funzionasse particolarmente perché il film era molto bello. In realtà, vedendo poi il lavoro che fa qua, mi sono reso conto che lui è mostruoso in questo suo muoversi poco, essere molto parco. Ha un temperamento drammatico incredibile. Cioè ogni volta che il suo personaggio ha un momento drammatico, è fortissimo. E poi ha un modo, ha una cosa, adesso un altro tecnicismo, ora ti dico un tecnicismo incredibile. Guarda, questo è veramente delle chicche che io non so perché vi regalo così. Cioè, ha dei piani d'ascolto fenomenali. I piani d'ascolto sono quando ti inquadrano, ma tu stai ascoltando un'altra persona che parla. Che sono difficilissimi perché non sai mai che, cioè un attore, adesso non è vero che non sa mai che fare, sennò non sarebbe un attore, però diciamo è molto complesso trovare qualcosa da fare, delle espressioni da fare quando stai solo ascoltando, e teoricamente non dovresti farne nessuna, cioè certo. Nel mondo reale le persone non fanno nessuna espressione quando ascoltano, però al cinema non funziona così. Lui ha questi piani d'ascolto fenomenali, quando guarda lei che parla è incredibile, è fantastico, e poi riesce a catalizzare in certe battute, in certi momenti, è veramente molto bravo. Ripeto, si chiama Luca Marinelli e secondo me, questa grande frase, è uno che farà strada, è uno che, no sul serio, è che è molto molto bravo. Insomma, come avrete capito, Tutti i Santi Giorni io lo spingo tantissimo, poi settimana prossima ci batterò un sacco, ed è veramente, c'è anche un pezzo dei Virginiana Miller ovviamente nel film, che si chiama Tutti i Santi Giorni e tutti gli altri pezzi di lei. Avevo capito che avresti portato qualcosa. Esatto, ce l'ho. C'è il CD, così facciamo la chiusura effetto. Capito. Bam! E invece, questo esce settimana prossima, come dicevo. Invece, questa settimana. Settimana esce un film terribile, madonna. Esce veramente un non film. Allora, si chiama All'ultima spiaggia, si chiama. Non parla di mare, parla all'ultima spiaggia, nel senso siamo arrivati all'ultima spiaggia. Alla frutta. Esatto, siamo alla frutta. La trama era anche interessante, guarda, perché la trama sembra la trama di un film italiano anni 50, sembra. A parte per il fatto che è incentrata su un reality, però se la della componente del reality sembra un film degli anni 50. Ancora su reality, anche questo? Però è solo blandamente. Allora, per fare un reality cominciano a fare un casting, e questo reality sarebbe su gente all'ultima spiaggia. A fare questo casting arrivano chiaramente dei derelitti, dei disperati, e noi vediamo quattro episodi, quindi è un film a episodi, di queste quattro persone che si presentano al casting e raccontano la loro storia da derelitto. Che questa struttura di andare avanti e indietro tra presente e flashback, con un personaggio che racconta la propria storia, è tipica dai film a episodi italiani, sembra tipo Un giorno in pretura, questi film qua, sembra. E anche l'idea di voler raccontare in questa maniera gli ultimi, cioè i disperati, mm-hmm. è anche tipica di quel film cinema italiano anni 50. La cosa che rende questo film, secondo me, terribile è che è un non film, cioè è un film in cui non ci sono attori, ma comici, cioè comici di cabaret. Che poi alcuni tra l'altro molto bravi, mi piacciono moltissimo, cioè Alessandro Di Carlo e Antonio Giuliani. Secondo me sono Antonio Giuliani, sì. Esatto, Alessandro Di Carlo magari l'hai visto. Pensavo fosse lui, però. È uno che è più visto che altro, e che secondo me è bravissimo, però chiaramente non sono attori. Cioè, e sono anche diretti da uno che faceva cabaret e poi ha fatto l'autore televisivo, quindi un non regista. Questa cosa peggiora ancora di più. Alcuni episodi sembrano proprio delle gag di avant spettacolo, cioè capisci che non è cinema, siamo da altre parti, e stona molto questo. Altri sono semplicemente non messi in scena veramente, cioè spesso poi gli attori guardano in macchina, come ruba la messa in scena Zelig, cioè quando l'attore si rivolge al pubblico guardando direttamente in camera, che non stiamo guardando la televisione, non è il modo di raccontare una storia, cioè non ti coinvolge poi la storia raccontata così. Mm-hmm. E poi soprattutto sì, mette in opposizione, fa una cosa che si fa spesso al cinema, cioè nel raccontare la storia fa in modo di mettere in opposizione due cose diametralmente opposte. Le cosiddette, guarda, oggi tutti i termini d'accademia oggi, le opposizioni logiche. Lo fai apposta? Guarda, è vero, oggi è vero. Per farmi, ecco. Sì, perché Faster mi bastona ogni volta che lo dico e tu no, quindi... È fatto di opposizioni logiche, però sono le più banali del mondo, cioè un episodio è eterosessuali o omosessuali. Un altro è legale e illegale, anzi diciamo guardie e ladri. Un altro ancora è nord e sud. E un altro che la termine mi ha fatto impazzire. Ah sì, italiani stranieri, fedeltà infedeltà. Una cosa terribile. Per cui alla fine assisti a 90 minuti di non film, con due o tre battute divertenti, per carità. Però insomma, veramente roba che ha più senso in una sede di cabaret che in un film. E soprattutto manca quella capacità che hanno i racconti di creare dei personaggi memorabili, anche magari anche un filmetto, ma non è che per tutti i film devono essere chissà che cosa, però magari ti ricava due o tre personaggi che sono interessanti, divertenti, o che come fa Verdone, che ti fa quei due o tre personaggi che ritrovi anche nella vita reale, anche nei suoi filmetti più piccoli, comunque è il senso di andarti a vedere una storia, no? Di incastrare un personaggio in un racconto che lo rende vivo. Qui sono tutti personaggi morti, invece. Vabbè, quindi insomma, croce sopra solo come sì, ultima spiaggia. Sì, esatto, bravo, questa spiaggia... è una metafora straordinaria. Ecco. Bravo, fantastico. Invece ero curiosa di questa accoppiata che è forte, dai, vale, esatto. Valerio Mastandrea, Germano insieme. E la, guarda, è la prima cosa che ho pensato, ho detto, ma com'è possibile che nessuno ci abbia pensato prima? E qui sono nati per stare insieme. Allora, parliamo di Padroni di casa, che è una locandina fenomenale. Se la vedete, sta per strada. È un cane, quello. È incredibile. Per strada ci sono i manifesti. È quel manifesto in cui si vedono come due sposi, ma sono due cani. È una cosa veramente strana. È una foto, tra l'altro, è una cosa veramente, veramente strana. Ma bellissima. L'avevamo accennato la settimana scorsa, questo film. È un film in cui ci sono non solo Valerio Mastandrea e Elio Germano a fare i protagonisti, che appunto uno dice, ma come mai nessuno ci ha pensato prima a metterli insieme, che sono fatti l'uno per l'altro? Ma fanno due fratelli, che è ancora più azzeccato, perché veramente potrebbero essere fratelli. Il film è di Edoardo Gabriellini. Edoardo Gabriellini è una figura molto particolare del cinema italiano, perché è un attore che ha fatto pochi film, ma io sono sicuro che ve lo ricordate tutti. Ovo Sodo, no? Lui. Esatto, lui è quello di Ovo Sodo, e sicuramente ve lo ricordate immediatamente. Scanaccio. Ma ha fatto anche dei film da regista, ha fatto BB e il Cormorano, che sono molto interessanti. Per cui è una figura veramente anticonvenzionale. Prende parte, ad esempio, due anni fa ha fatto Io sono l'amore. Ha un ruolo in Io sono l'amore, che è uno dei film più belli italiani degli ultimi anni. Tanto un film che qui abbiamo dimenticato di dirlo, perché poi sai, queste cose vai avanti e ti dimentichi, perché accadono a mesi dopo l'uscita. Ma è andato benissimo in America. Io sono l'amore è uno dei più grandi successi italiani in America. Ma dai. È un film veramente... E infatti ci sono state mille polemiche giuste sul fatto che poi non abbiamo candidato quello agli Oscar, ma la prima cosa bella, che insomma... che aveva meno speranze. Comunque, vabbè, non importa. Padroni di casa. Padroni di casa è un film dove Gabrielini fa il regista, Valerio Mastandrea e Leo Germano sono fratelli e c'è Gianni Morandi. Gianni Morandi. E te lo dico, Gianni Morandi è perfetto in Ma quel film. Ma fa Gianni Morandi? Fa lui. No, guarda, fa un finto Gianni Morandi. Cioè, fa un cantante italiano molto famoso, che era molto famoso negli anni 60 e che vive in una tenuta di montagna. Non si chiama Gianni Morandi. Poi nel film fa delle cose brutte, quindi, cioè, è normale che lui non volesse usare il suo nome, insomma, non è edificante come figura. Però, insomma, è un ruolo che gli calza, chiaramente. Una dinamica molto intelligente di questo film, che io ho apprezzato subito, è che non solo mette Elio Germano e Mastandrea a fare i fratelli, ma Elio Germano, che ovviamente è il fratello minore, è quello forte dei due, cioè quello responsabile, preciso, che sa tutto, è quello che gestisce il fratello grande, che invece si lascia gestire, quello che insomma sta sempre appeso al fratello più piccolo, che hanno un'impresa edile e vanno a fare una riparazione a casa di Gianni Morandi. E chiaramente il fratello piccolo del Germano è quello un po' manager, che sa tutte quante le cose, arriva in camicia, l'altro invece arriva in maglietta e fa più che altro il lavoro di piastrellare, fa queste cose. Chi sono i padroni di casa? I padroni di casa sono gli abitanti del luogo, perché loro si trasferiscono per fare questa cosa da Roma a questo paesino di montagna che sinceramente non ricordo, comunque Nord Italia, perché zona tra virgolette Gianni Morandi, quel tipo di zona là, la zona Gianni Morandi. Zona Gianni Morandi, bellissimo. E i padroni di casa sono gli abitanti del luogo con cui loro devono entrare in contatto, perché comunque stanno lì 2 o 3 giorni per fare questi lavori, e chiaramente le cose non andranno bene, per nulla proprio. Anzi, il film poi ha un finale quasi tra il giallo e il thriller. Com'è? È un film di quelli. È un film che, nel quale andrei in deroga al mio ruolo e direi: beh, vedetevelo e fatevi un'idea. Perché è un film molto complesso, ha tante cose buone, tanti spunti. C'ha, come al solito, un Mastandrea inumano. Veramente straordinario. Alle volte ti fa ridere con 2 battute in maniera. Non solo, lui ha questa grande dote che ti fa ridere con 2 battute, ma con queste battute caratterizza il suo personaggio. È vero. Capito? Ti fa capire che non solo ti sta dicendo una cosa divertente, ma questo personaggio è il tipo che dice queste cose, che fa queste osservazioni, che è. Ed è fenomenale, c'è una scena di ping pong da impazzire, da ridere. Però poi dall'altro lato a me sembra che questo film in certi momenti non sia all'altezza delle sue premesse. Cioè, crea una serie di situazioni, di idee molto interessanti che ti farebbero sperare per il meglio, ma è come se poi non riuscisse a concretizzarle. Ti lascia quindi un po' con l'amaro in bocca. Però appunto è una complessità molto forte. Ero molto dibattuto su questa cosa, per questo vi dico: andatelo a vedere e fatevi una ragione. Perché comunque, fatemi un'idea. Perché comunque è un film valevole. Comunque, cioè, nonostante i difetti che comunque secondo me un po' ha, è un film molto interessante da vedere, molto ben fatto. Ed è. Poi avevi ragione tu quando hai fatto quella faccia prima di dire: ah, i film italiani, che è vero, per carità. Mediamente. Per carità. Però questo insomma, è un film sopra la media, per cui insomma vale la pena vederlo. Ma poi c'è la Comencini. E poi c'è un film sotto la media. No, a me proprio non devo dire, questo film veramente non è piaciuto. Secondo me Francesca Comencini, la regista di Un giorno speciale, film che esce questa settimana, è la più brava delle sorelle Comencini. Ha fatto dei film tipo Lo spazio bianco, era un film molto interessante. Ha fatto dei documentari molto, molto interessanti, veramente una. Però questo Un giorno speciale, veramente no, è un film non riuscito. È un film che, e mi dispiace dirlo perché odio dire queste cose dei film, odio dire queste cose dei registi, però è vero. È un film che ti dà l'idea che se. Ti dà l'idea del. Oh, ma che bellini che sono questi poveracci. Guarda, sono veramente. Oh, mamma mia. Sono veramente delle brave persone, però, questi poveracci. Che guarda con benevolenza. Delle figure in difficoltà, capito? Ma lo buonista. Fa. Buonista. Sì, esatto, un po' buonista, ma anche buonista dall'alto, capito? Come per dire. Ma guarda, che io invece gli voglio bene a questi. E questa è la sensazione più fastidiosa. Racconta. Allora, c'è Filippo Sciacchitano, che è diventato famoso per Scialla. Se l'hai visto Scialla non l'ho visto, per quello molto carino. Lui è, Scialla è diretto da quello che scrive tutti i film di Verzì, per cui è molto, chiaramente anche scritto da lui, molto molto ben scritto. Comunque Sciacchitano è quello che ha fatto Scialla, ha fatto anche le pubblicità della Team, le ultime, quelle con Garibaldi, per cui è diventato abbastanza famoso. Lei invece non è famosa, ed è una giornata nella vita di questi due ragazzi che si incontrano perché lui fa l'autista di una società di quelle, sai, che ti affitti il macchinone e c'è il ragazzino che fa l'autista che ti porta in giro. Lei è una disperata, talmente disperata che la madre, che è più disperata di lei, visto che lei è bella, è una bella, praticamente tra virgolette è come se la vendesse a un politico. Cioè non è che gliela vende, però per potergli far fare strada la acchitta tutta per bene la mattina presto, con i tacchi alti, il trucco, una cosa terribile, poi veramente terribile. E la manda da sto politico, e il politico la manda a prendere col macchinone, quindi lui dovrà guidare lei là. ci saranno dei ritardi perché ci sono questo politico, una serie di cose per cui lui deve continuare a portarla in giro, si sviluppa un rapporto tra i due perché comunque a modo loro sono due disperati, perché lui, il ragazzo che ha ottenuto questo ruolo d'autista con una raccomandazione presso un prete, perché appunto anche lui la madre l'ha raccomandato per un presso un prete e gli ha fatto ottenere questo posto, e come spesso capita in queste cose, in questa giornata tra virgolette di libertà sviluppano un rapporto e alla fine poi, vabbè, ve lo dico, ma insomma non fate fatica a immaginarlo. Però non è un brutto film, come avete capito dalla trama, è un film che potrebbe essere carino, ma il tono è proprio quella cosa che spesso i registi dicono di se stessi, cioè lo sguardo, la maniera in cui nel raccontare questa storia il regista guarda questi personaggi, e qui li guarda proprio dall'alto verso in basso, ed è una cosa abbastanza fastidiosa. Si percepisce molto questo tono paternalistico nel... non lo so, veramente io... Poi a un certo punto c'è anche il vanto di inserire delle citazioni da Via col Vento e poi spiegarle. Non so, veramente no, è un film che vi sconsiglio. Non so, c'è altro? Sì. Cioè, Step Up 4. Ora, tu hai mai visto un film di Step Up? No. Ecco, io voglio capire chi è che vedi. Perché siamo arrivati al quarto film di Step Up. Il che vuol dire che se in America ne fanno 4 e noi in Italia li prendiamo, li distribuiamo, li mettiamo anche in tante sale, vuol dire che incassano. Questo è poco ma sicuro. Io non conosco nessuno che li guarda. Cioè, a parte quelli che come me per lavoro li vedo, cioè, io li ho visti tutti quanti, Ma io non conosco nessuno. Ma non solo, tu conosci qualcuno che li ha visti? Magari te l'ha detto, ho visto questo film. No. Esatto, anche io non conosco nessuno che conosca qualcuno che li ha visti. Ma chi è che li vede? No, se voi li avete visti, scriveteci. Ma poi non lo dico come per dire. Non lo dico come per dire che siano uno schifo. Anzi, a me non dispiacciono nemmeno i film di Step Up. Perché sono film di ballo. Se non lo sapete, insomma, sono film che seguono molto il trend del ballo di strada. E raccontano tutti la stessa storia. Tipo Save the Last Dance, questo filone qui. Esattamente. E raccontano tutti la stessa storia. Ma è evidente che è una cosa metodica, perché sono veramente la stessa. Cioè, lui e lei non si conoscono, ma entrambi fanno ballo. Fanno due stili diversi. Si incontrano, si innamorano, ma le differenze nel loro video li separano. Eppure alla fine razziali, si uniranno. Magari. No. Sono A, razziali, B, di censo, D, C, di città, D, di ballo. E alla fine faranno uno spettacolo nel quale uniranno i loro due stili in un unico grande ballo che unirà anche le loro vite. Questo è, sono tutti così, anche questo. Questo è ambientato a Miami. Adesso vi dico quelle 3-4 variazioni del 4. È ambientato a Miami e c'ha un po' di velleità di protesta civile, perché in teoria questa volta i ballerini protagonisti fanno queste... con queste improvvisazioni per strada in maniera, come dire, per rivendicare qualcosa a livello sociale. Faccio fatica a dirlo perché poi sono quasi un po' all'acqua di rose, però in teoria si battono contro il sistema e quindi c'è un che di protesta civile. Invece lei è la figlia del magnate che fa danza classica, balletto tradizionale. Cioè, allora tu no, non sei la vera danzatrice, no, siete voi che... E poi invece no, facciamo un balletto tutti insieme e l'amore vince. Però no, sono io il motivo per cui dico che non sono brutti film, perché in effetti poi c'è un film, la trama conta pochissimo, non è che è sempre uguale. Sono film di ballo, chiaramente, e come anche erano i musical e tutti quanti che hanno, certo, Cantando sotto la pioggia, una trama ridicola, orrenda veramente. Anche i film di Fred Astaire e Ginger Rogers avevano tutti la stessa trama, però il punto era che si balla e alle volte sono bellissimi. Questo è particolarmente ben fatto, cioè i balletti sono particolarmente complessi, interessanti, ben girati, ben coreografati, veramente tanto. C'è anche il 3D, è un bel 3D, chiaramente è un 3D da ballo, cioè un 3D, come dire, che è fatto per far vedere ancora meglio le coreografie. E anche a me, che insomma questo genere di cinema non mi fa impazzire, però devo dire che sono rimasto piacevolmente intrattenuto dalle coreografie di Step Up 4. Quindi se qualcuno li ha visti, per favore ce lo dica. Sì, un appello. Esatto. Bene, scriveteci rapidamente perché il tempo scorre, perché, anzi perché sono quasi andare. Le 7, ma non vedo Emanuele Tamagnini, ma quindi noi andiamo avanti finché non si affaccia. Ma noi potremmo mettere un clamoroso brano tratto da tutti i santi giorni? Ma sì. Ma facciamolo. Guarda. Oggi non c'è Faster. Allora, tu di qualcosa che lo prendo. Sta lì, sta ascoltando come un cecchino. Ora vi arriva un messaggio. No, invece ti volevo dire che ho visto Reality. Ah, Reality. Il film di Matteo Garrone. Sì. E da brava parte... Ah, eccolo, è arrivato. E sì, avevi ragione, non mi ha entusiasmato come i film precedenti di Garrone, anche se, devo dire, mi ha colpito tantissimo l'interpretazione dell'ergastolano. Sì, incredibile, il protagonista di reality è un veramente un ergastolano che attraverso un programma di teatro nel carcere è riuscito a ottenere il permesso di girare il film. Ed è... ma cioè, poi sai, veramente sono quelle teorie da cinema italiano per il quale prendere questi tipi di persone ti porta un po' di vita nel film, ed è verissimo. Ti è piaciuto? È arrivato abbastanza meno degli altri, forse un po' fuori tempo rispetto, cioè questo tema del Grande Fratello alla fine. Sì, è incredibile, è arrivato paradossalmente tardi, proprio, esatto. Poi alla fine è vero, è vero. Però il bello del film è che parte sicuramente con, proprio come dice il titolo, col reality, proprio la trasmissione televisiva, però poi fa un discorso di confusione tra realtà vera e realtà mediata, realtà sì della televisione ma di tutti i media in generale. E la confusione è incarnata da questo personaggio che, se l'avete visto, lo sapete, a un certo punto non capisce più la differenza, che è molto interessante, che in fondo può andare anche oltre il reality show in quanto trasmissione e applicarsi a qualsiasi tipo di mediazione di un'altra realtà. Tu mi chiederai, va bene, ma che brano mettiamo di questo CD? Vuoi annunciarlo? Non ne ho la minima idea, perché come no? Ma perché non l'ho mai sentito? Io l'ho sentito nel film, non so come si chiamano. Ah, bene. Metti la 1, la 1 è sempre un gran pezzo. È sempre un gran pezzo. Bene. Allora, diciamolo, lei si chiama Tony è scritto con l'H tra la T e la H, tra la T e la O, scusate, è il protagonista di, assieme a Luca Marinelli, di Tutti i Santi Giorni, che è il prossimo film di Paolo Virzì che esce settimana prossima. Lei ha fatto le canzoni, è una cantante anche nel film, e via con la traccia numero 1. Ma ci salutiamo con questa? Sì, brava, o è una cosa importante. Non ho altro da aggiungere, ci salutiamo con Tony. Bene, allora grazie per avermi fatto compagnia, grazie a tutti per la pazienza, vi prometto che venerdì prossimo vi porto Faster in forma. E vi auguro un'ottima serata e vi lascio nelle ottime mani di Emanuele Tamagnini. Andiamo con questa traccia tratta da Tutti i Santi Giorni. Ciao, buona serata. Like a fire.